Terzo anello ad alta voce. Il processo di Franz Kafka. Da quando l'avvocato aveva cominciato a parlare, Bloch non guardava più il letto, ma teneva gli occhi fissi da qualche parte in un angolo, tutto orecchi, come se la vista di quello che aveva parlato fosse troppo abbagliante perché lui la reggesse. Ma neppure ascoltare era facile, perché l'avvocato parlava volto contro il muro con voce rapida e bassa. «Volete che me ne vada?» chiese Bloch. «Ormai sei qui», disse l'avvocato. «Rimani!» Si sarebbe potuto credere che l'avvocato non avesse appagato il desiderio di Bloch, ma lo avesse minacciato, magari di bastonate, perché Bloch cominciò adesso davvero a tremare. «Ieri», disse l'avvocato, «andai dal terzo giudice, un mio amico, e a poco portai la conversazione su di te. Vuoi sapere cosa disse?» «Oh, la prego», disse Bloch. L'avvocato non rispose subito. Bloch ripeté la preghiera e si chinò come se volesse inginocchiarsi. Ma K lo investì. «Che fai?» gridò. Poiché Leni aveva voluto impedirgli il grido, lui le afferrò anche la seconda mano. Non era la stretta dell'amore quella con cui la teneva. Lei sospirò più volte mentre cercava di liberare le mani. Ma il grido di K fece punire Bloch perché l'avvocato gli chiese: «Chi è il tuo avvocato?» «Siete voi», disse Bloch. «E oltre a me?» chiese l'avvocato. «Nessuno all'infuori di voi», disse Bloch. «Allora obbedisci solo a me», disse l'avvocato. Bloch fu del tutto d'accordo, lanciò a K occhiate rabbiose e scosse con violenza il capo verso di lui. Se quell'atteggiamento si fosse tradotto in parole, sarebbero state ingiurie grossolane. E K aveva voluto parlare confidenzialmente della propria causa con un essere simile. «Non ti disturberò più», disse K appoggiandosi alla spalliera. «Inginocchiati, striscia carponi, fa quello che vuoi. Non me ne importerà niente». Ma Bloch aveva un suo onore, almeno nei confronti di K, perché agitando i pugni gli andò contro e gridò forte quanto poteva osare in vicinanza dell'avvocato. «Lei non deve parlare con me in questo modo! Non è permesso! Perché mi offende? E qui per giunta davanti al signor avvocato, dove tutti e due, lei ed io, siamo tollerati solo per compassione. Lei come uomo non è migliore di me. Anche lei è imputato e anche lei ha un processo. Se nonostante questo lei è anche un signore, allora anche io sono altrettanto signore, se non addirittura ancora di più. E voglio che mi si rivolga la parola come tale, specie da parte sua. Ma se lei si crede privilegiato perché siede qui e può ascoltare tranquillo, mentre io, come lei si esprime, striscio carponi, allora le ricorderò la vecchia sentenza. Per chi è sospettato, meglio il moto che l'immobilità, perché quello che sta fermo può sempre trovarsi, senza saperlo, sul piatto di una bilancia ed essere pesato coi suoi peccati». K non disse nulla. Con gli occhi immobili guardava soltanto quell'uomo fuori di sé. Che cambiamenti erano avvenuti in lui solo nell'ultima ora. Era il processo a buttarlo in qua e in là, senza fargli riconoscere dov'era l'amico e dove il nemico? Non si accorgeva che l'avvocato lo umiliava di proposito e questa volta mirava soltanto a ostentare la sua forza davanti a K per sottomettere con ciò forse anche K? Ma se Bloch non era in grado di rendersi conto di questo, o se aveva tanta paura dell'avvocato che quella consapevolezza non poteva servirgli a nulla, come mai allora sapeva essere tanto furbo o tanto audace da ingannare l'avvocato tacendogli che faceva lavorare per sé altri avvocati oltre a lui? E come osava aggredire K se questi ad ogni momento poteva svelare il suo segreto? Ma quello osò anche di più. Si diresse verso il letto dell'avvocato e cominciò anche lì a lagnarsi di K. «Signor avvocato», disse, «avete sentito come quest'uomo ha parlato con me? Si possono ancora contare le ore del suo processo e già pretende di dare lezioni a me, a un uomo che è dentro il processo da 5 anni. Arriva persino a insultarmi. Non sa niente e insulta me che, per quanto le mie deboli forze me lo consentono, ho studiato con scrupolo quello che esigono convenienza, dovere, pratica del tribunale». Thank you. Non curarti di nessuno, disse l'avvocato. Fa quello che ti sembra giusto. Sicuro, disse Bloch, come per incoraggiare se stesso. E dopo una rapida occhiata di traverso, si inginocchiò proprio contro il letto. Sono già in ginocchio, mio avvocato, disse. Adesso sarebbe stato molto tentante deridere Bloch. Leni approfittò della distrazione di K, visto che K la teneva per le mani, puntò i gomiti contro la spalliera e cominciò a far dondolare leggermente K. K sulle prime non vi badò, ma guardava Bloch sollevare cautamente l'orlo del piumino per cercare, era chiaro, le mani dell'avvocato che voleva baciare. Ma l'avvocato taceva. Con una mano Bloch accarezzava cautamente il piumino. Nel silenzio che ora gravava, Leni si liberò dalle mani di K e disse: «Mi fai male, lasciami, vado da Bloch». Si diresse verso quello e sedette sulla sponda del letto. Bloch fu molto contento della sua venuta. Con segni vivaci ma muti, la pregò di intervenire in suo favore presso l'avvocato. Doveva aver bisogno urgente delle informazioni dell'avvocato, ma forse solo per farle sfruttare dai suoi altri avvocati. Leni probabilmente sapeva bene come prendere l'avvocato. Indicò la mano dell'avvocato e sporse le labbra come per un bacio. Bloch eseguì subito il baciamano e dietro invito di Leni lo ripeté ancora due volte. Ma l'avvocato continuava a tacere. Allora Leni si chinò sopra l'avvocato. Le belle forme del suo corpo divennero visibili quando si protese e, curva sul viso di lui, accarezzò i suoi lunghi capelli bianchi. Questo gesto lo costrinse infine a una risposta. «Esito a comunicarglielo», disse l'avvocato. E Kappa lo vide scuotere un po' la testa, forse per sentire di più la pressione della mano di Leni. Bloch rimaneva in ascolto a capo chino, come se ascoltando trasgredisse un ordine. «Perché esiti?» chiese Leni. Kappa ebbe l'impressione di ascoltare un dialogo preparato, ripetuto più volte, che si sarebbe ripetuto ancora spesso e che solo per Bloch non poteva perdere di novità. «Come si è comportato oggi?» chiese l'avvocato, invece di rispondere. Prima di pronunciarsi, Leni abbassò lo sguardo su Bloch e rimase un po' ad osservarlo, mentre quello alzava le mani verso di lei e le fregava supplichevole una contro l'altra. Infine, annuì seria, si girò verso l'avvocato e disse: «È stato buono e diligente». Un vecchio commerciante, un uomo con la barba lunga, supplicava una ragazza per avere un attestato di buona condotta. Anche se l'avesse fatto per secondi fini, niente poteva giustificarlo agli occhi del prossimo. Kappa non capiva come l'avvocato potesse pensare di averlo dalla sua dopo una tale commedia. Se non lo avesse scacciato già prima, ci sarebbe arrivato dopo quella scena. A momenti umiliava chi vi assisteva. Questo era l'effetto del metodo dell'avvocato, al quale Kappa, per fortuna, non era stato esposto abbastanza a lungo. Il cliente alla fine dimenticava il mondo intero e sperava soltanto di trascinarsi sino alla fine del processo lungo quella strada sbagliata. Non era più un cliente, era il cane dell'avvocato. Se quello gli avesse comandato di strisciare sotto il letto come in un canile e di abbaiare di là sotto, lo avrebbe fatto con piacere. Quasi fosse incaricato di imprimersi bene in testa tutto quello che lì veniva detto, per farne denuncia in più alto luogo e stenderne una relazione, K ascoltava con aria critica e superiore. «Cosa ha fatto tutto il giorno?» chiese l'avvocato. «Perché non mi disturbasse mentre lavoravo», disse Leni. «L'ho rinchiuso nella camera della domestica, dove del resto sta di solito. Dal buco della serratura potevo vedere di tanto in tanto cosa faceva. Era sempre inginocchiato sul letto. Aveva spiegato le opere che tu gli avevi prestato sul davanzale e leggeva. Questo mi ha fatto una buona impressione. La finestra infatti si apre soltanto su un condotto d'aria e quasi non dà luce. Che Bloch ciò nonostante leggesse, mi dimostrava la sua docilità». «Sono contento di sentire questo», disse l'avvocato. «Ma capiva quello che leggeva?» Thank you. Durante questo dialogo, Block muoveva di continuo le labbra. Evidentemente formulava le risposte che sperava di sentire da Leni. «Come posso rispondere con sicurezza?» disse Leni. «In ogni modo ho visto che leggeva molto attento. È rimasto tutto il giorno a leggere la stessa pagina e mentre leggeva faceva scorrere il dito lungo le righe. Tutte le volte che guardavo dentro sospirava, come se leggere gli costasse gran fatica. Le opere che gli hai prestato debbono essere molto difficili da capire». «Sì», disse l'avvocato. «Sono difficili. Non credo neppure che ne capisca niente. Debbono dargli soltanto un'idea di quanto è difficile la lotta che conduco per difenderlo. E per chi conduco questa difficile lotta? Per... è quasi difficile dirlo. Per Block. Anche quello che ciò significa deve imparare a capire. Ha studiato senza interruzione?» «Quasi senza interruzione», rispose Leni. «Solo una volta mi ha chiesto acqua da bere. Gli ho passato un bicchiere attraverso il finestrino. Alle 8 l'ho fatto uscire e gli ho dato qualcosa da mangiare». Block sfiorò K con un'occhiata di sbieco, come se quelle fossero cose di cui inorgoglirsi, tali da fare impressione anche su K. Adesso sembrava avere buone speranze. Si muoveva più libero, trascinandosi qua e là sulle ginocchia. Con tanta maggiore evidenza impietrì alle seguenti parole dell'avvocato. «Tu lo lodi», disse l'avvocato. «Ma proprio questo mi rende difficile parlare. Il giudice non si era infatti pronunciato favorevolmente, né su Block, né sul suo processo». «Non favorevolmente?» chiese Leni. «Com'è possibile?» Block la guardava con un'intensità tale, come se ancora in quel momento le attribuisse la capacità di volgere a suo favore le parole pronunciate dal giudice tanto tempo prima. «Non favorevolmente», disse l'avvocato. «Era persino infastidito quando cominciai a parlare di Block». «Non parli di Block», disse. «È un mio cliente», dissi. «Lei permette che si abusi di lei», disse quello. «Non considero la sua causa ancora perduta», io dissi. «Lei permette che si abusi di lei», ripeté quello. «Non credo», dissi io. «Nel processo Block è dirigente ed è sempre dietro la sua causa. Si può dire che abiti da me per tenersi sempre al corrente. Non sempre si trova tanto zelo. Certo, di persona non è gradevole, ha modi urtanti ed è sporco, ma dal punto di vista processuale è irreprensibile». Dicendo irreprensibile, esageravo a ragion veduta. Il giudice mi disse: «Block è soltanto furbo, ha raccolto molte esperienze e sa procrastinare il processo, ma la sua ignoranza è molto maggiore della sua furberia. Che direbbe se venisse a sapere che il suo processo non è nemmeno cominciato, se gli si dicesse che non è stato ancora dato il segnale di campanello per l'inizio del processo?» «Buono, Block», disse l'avvocato, perché Block aveva cominciato ad alzarsi sulle ginocchia malferme per chiedere evidentemente spiegazioni. Era la prima volta che l'avvocato si volgeva direttamente a Block con un così lungo discorso. Ora lasciava vagare gli occhi stanchi, ora li chinava su Block, che sotto tale sguardo ricadde adagio sulle ginocchia. «Queste parole del giudice non hanno per te nessuna importanza», disse l'avvocato. «Non spaventarti per ogni parola. Se ciò si ripeterà, non ti rivelerò più nulla. Non si può cominciare una frase senza che tu mi guardi come se fosse il momento della tua sentenza definitiva. Vergognati, davanti al mio cliente. Così scuoti anche la fiducia che hai in me. Che cosa vuoi, alla fine? Sei ancora in vita, sei ancora sotto la mia protezione. La tua paura è assurda. Avrai letto da qualche parte che la sentenza definitiva arriva, in qualche caso improvvisa, da una bocca qualsiasi, in un'ora qualsiasi. Sia pure con molte riserve, ciò è sì vero, ma vero altrettanto è che la tua paura mi ripugna e che in essa vedo una mancanza della fiducia necessaria. Che cosa ho mai detto? Ho riportato le parole di un giudice. Sai pure che intorno al procedimento le opinioni diverse si stringono fino a diventare impenetrabili. Questo giudice, per esempio, fa iniziare il procedimento in un momento diverso dal mio. Una differenza di opinioni, nient'altro. In una certa fase del processo, secondo una vecchia tradizione, viene dato un segnale col campanello. Secondo questo giudice, il processo comincerebbe a quel punto. Non posso dirti adesso tutto quello che parla contro ciò. Del resto non lo capiresti neppure. Ti basti sapere che molto parla contro». Block, imbarazzato, passava le dita attraverso il pelo dello scendiletto. La paura causata dalle parole del giudice gli faceva ogni tanto dimenticare la sua soggezione all'avvocato. Pensava solo a sé e girava da tutte le parti le parole del giudice. «Bloch», disse Leni con accento ammonitore, e lo sollevò leggermente per il bavero. «Lascia stare la pelle e ascolta l'avvocato». K ebbe l'incarico di mostrare alcuni monumenti a un corrispondente italiano della banca, che era per essa molto importante e veniva per la prima volta in quella città. Era un incarico che in altri tempi avrebbe di certo considerato onorifico, ma che adesso, visto che solo con grande sforzo riusciva ancora a mantenere in banca il suo prestigio, accettò a malincuore. Ogni ora che sottraeva all'ufficio lo preoccupava. Neppure lontanamente poteva più sfruttare il suo orario di lavoro come un tempo. Alcune ore le passava soltanto fingendo a gran fatica di lavorare sul serio, ma appunto per questo tanto maggiori erano le sue preoccupazioni quando non era in ufficio. Gli sembrava allora di vedere come il vice direttore, che da sempre era stato in agguato, ogni tanto entrava nel suo ufficio, si sedeva alla sua scrivania, frugava fra le sue carte, riceveva e stornava da capo clienti con cui questi da anni era quasi in rapporto di amicizia. Scopriva forse persino errori da cui ora K, mentre lavorava, si vedeva sempre minacciato da mille parti e che non poteva più evitare. Se una volta quindi veniva incaricato, sia pure in modo ancora così onorifico, di un'incombenza o di un piccolo viaggio, e negli ultimi tempi simili incarichi si erano accumulati del tutto casualmente, rimaneva tuttavia sempre il sospetto che lo si volesse allontanare per un po' dall'ufficio e controllare il suo lavoro, o almeno che in ufficio lo si ritenesse facilmente sostituibile. Avrebbe potuto rifiutare senza difficoltà la maggior parte di questi incarichi, ma non osava perché, se il suo timore avesse avuto un sia pur minimo fondamento, il rifiuto dell'incarico significava la confessione della sua paura. Per questa ragione accettava tali incarichi con calma apparente, arrivando persino a nascondere, una volta che dovette compiere un faticoso viaggio di affari di 2 giorni, una seria infreddatura, solo per non esporsi al pericolo che gli impedissero quel viaggio, richiamandosi al tempo piovoso d'autunno. Quando fu tornato da questo viaggio con un mal di testa da impazzire, seppe che era stato destinato ad accompagnare il giorno successivo il corrispondente italiano. La tentazione di ricusare, almeno per una volta, fu grande, soprattutto perché l'incarico assegnatogli non era in diretto rapporto con il lavoro. Sì, l'adempimento di quel dovere mondano nei confronti del corrispondente era in sé certo importante, non però per K, il quale sapeva bene che poteva sostenersi soltanto con successi sul lavoro e che, se questo non gli fosse riuscito, Non aveva nessuna importanza il fatto di avere magari affascinato in modo inatteso l'italiano. Non voleva essere allontanato neppure un giorno dall'ambito del lavoro, perché troppo grande era la paura di non esservi più riammesso. Una paura che, se ne rendeva benissimo conto, riconosceva come eccessiva, ma che tuttavia lo opprimeva. In questo caso, d'altra parte, era quasi impossibile inventare una scusa accettabile. La conoscenza che K aveva dell'italiano non era molto ampia, ma tuttavia sufficiente. Decisivo era però che K, dai tempi andati, avesse qualche nozione di storia dell'arte, un fatto conosciuto e molto esagerato nella banca, perché K, durante un certo periodo, e del resto solo per ragioni di lavoro, era stato membro della Società per la Conservazione dei Civici Monumenti. Ora però era corsa voce che l'italiano fosse un appassionato d'arte, e la scelta di K come suo accompagnatore era quindi ovvia. Roberto Pedicini ha letto Il processo di Franz Kafka, riduzione di Grazia Basile, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.